casa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Nelle palazzine Italia ci sta poca luce. È un rione, il rione Italia, sono delle palazzine tutte uguali tra loro, non è che si somigliano, sono uguali, identiche, precise una all'altra. Stesso portone, stessa fioriera, stesso ficus, stesso colore sulle pareti dell'ingresso, stesso numero di gradini, stessa disposizione. Non è facile per niente trarre nel portone giusto fare i gradini, che poi sono uguali agli altri. 10 per rampa, alla stessa altezza. Non ti devi distrarre, tu non puoi essere solo a pensiero, perché devi leggere la lettera dell'alfabeto in alto sulla destra del portone. Solo la lettera dell'alfabeto in alto sulla destra del portone ti dice: sono a casa, solo lì, solo allora. Così capita di infilare la chiave nella porta sbagliata. All'inizio, quando le cose sono state consegnate nelle palazzine d'Italia, non c'era ancora la corrente. A buio arrivavi davanti al portone, alla porta, infilavi la chiave nella porta tua o in quella nella quale speravi di entrare. A buio i contorni svaniscono i corpi, svanisce il cielo. La chiave è la tua, e di questo sei sicuro. Ma la porta, no. Forse la porta nella quale avresti desiderato entrare, forse nella porta in cui hai sempre sperato di entrare. Ma non è la chiave della porta che è la tua. Nei palazzini d'Italia, se senti qualcuno dietro la porta che vuole entrare, che fai? Alla luce di qualche candela sparsa per casa si apriva la porta. All'inizio, solo il silenzio all'inizio, poi l'errore vero o falso che era si risolveva. È sbagliato, bello, questa è casa a me! Oppure chi si era accarezzato con lo sguardo sotto le palazzine d'Italia, sotto al porticato qualche giorno prima, poteva bisbigliarsi all'orecchio quello che si sono promessi con gli occhi. Nel buio di un pianerottolo nei palazzini d'Italia si aprivano le porte, ognuna con la propria chiave, ma all'inizio, quando le case sono state consegnate, non c'era ancora la corrente. A buio arrivavi davanti al portone, alla porta, infilavi la chiave nella porta tua o in quella nella quale desideravi entrare. Si sbagliava scala o porta, per caso o per desiderio. Nei palazzini d'Italia la luce doveva ancora arrivare, ma dopo ognuno correva a bascio sotto casa e si passava una palla, se non c'era la palla era una bottiglia, se non era la bottiglia era la lattina, la lattina quella che era sbatteva contro una colonna, sbatteva contro una macchina, sbatteva contro la finestra e si affacciavano bello moscino a bacio, lo spaccano ammazzate, capito, siano creti e scendevano giù e ricominciavano ad inseguirli. Scappo, portiere, ognuno scappava via gridando: portiere. L'uomo nero, mai sentito nominare nei palazzi in Italia. Lo ognuno da baci, i ragazzini che sono giù di sotto, giocano al casino, fanno casino col pallone. Scappavano via, gridando: portiere. C'avevo paura del portiere, non dell'uomo nero. Mo però ognuno da baci, i ragazzini che sono giù di sotto. Un portiere, normalmente, non era il portiere di un portone di un palazzo. Era uno della squadra del rione vicino che si era comprato guante e ginocchiere da portiere. E si faceva chiamare un portiere. Mo nei palazzi in Italia nessuno si fa chiamare portiere. Tutti sono centravanti, punto mediano, c'è io portiere! Ma lo ognuno da bascia, scappavano via quando avevo paura di prendere un sacco da mazzata. Scappavano via gridando: portiere, scappa, portiere! Mo, nei pazzi in Italia, non ci sta un palo della luce, c'è io portiere! Nei pazzi in Italia, un portiere, non gli è più un portone del palazzo. All'inizio, quando le case sono state consegnate nei palazzi in Italia, non c'era ancora la corrente. A buio arrivavi davanti al portone, alla porta, infilavi la chiave nella porta tua. La signora Pian, una bella ragazza, la signora Pian era proprio una bella guagnetta, un femminone esagerata, era rimasta incinta. Palazzina F, la signora Pian, 4 gradini, porta sulla destra. L'appartamento del portiere abitava, ma i palazzi in Italia non c'è il portiere, nell'appartamento del portiere ci sta la signora Pian, una femminone. Alla luce qualche candela sparsa per casa, la signora Pian è rimasta incinta, la panza gonfia, vanno piano i treni che scendono giù a bascia nel tavoliere, vanno piano, è oliva, vigna, vanno piano i treni. Una ragazza madre non suonava bene, non suonava conosciuta come la sirena dell'arsenale che alle 4:30 suona per mandare gli operai a riposarsi. Le donne dei palazzi in Italia paravano a bassa voce per non farsi sentire da ognuno da bascia. Un portiere della signora Piana era passato, una bella ragazza, una bella guagnetta, e l'aveva lasciata incinta. Era arrivata al buio, e al buio se ne era asciutta. Qui dalla palazzina Efti la buff. No, c'è detto, non devi parlare qua con la bocca piena. Qui dalla palazzina Efti la buff. No, non parla più chiaro. Quello della palazzina F ai baffi, c'hai capito? No, Nunzio, palazzina Genova, lettera G del Civico Italia. Mano destra panino con la mortadella e sotto abbraccio sinistro tenevo un pallone. Nunzio stava sempre sotto a portone di casa sua. Tu tornavi da scuola, no? E lui stava già sotto a portone di casa sua. Uscivi con tua madre, con tuo padre a fare la spesa. Nunzio stava sotto a portone di casa sua. Stava sempre lì, sembrava il faro del porto. I gabbiani sopra la monnezza. Nunzio, io, Nunzio, precise, precise. Scusa, come hai fatto a vedere quello della palazzina F? La domanda. È sempre di qua passa. Quello della palazzina F noi sapevamo che c'era, che era pari a noi, che aveva la stessa età nostra, però con noi a pallone non ci giocava proprio. Camminava veloce. E questo lo diceva pure Nunzio, però questa cosa era vera. Camminava veloce, che pareva quando camminava, no? Una iadina proprio. Una gallina. Le palazzine in Italia per un lato stanno vicino a Mar Piccolo, dall'altro stanno le ciminiere. Nel Mar Piccolo, a Taranto, ci si va a pescare. Perché stanno le sorgenti, no? Ci stanno i cefaletti. Poi stanno anche le coltivazioni delle cozze, che non si pescano le cozze, si coltivano. E il nonno di Nunzio era un pescatore. E andava a pescare tutti i giorni, il nonno di Nunzio, tutti i giorni, pure la domenica, pure i giorni di festa. C'aveva quattro lamiere attaccate una all'altra, proprio vicino al Mar Piccolo, e dentro c'aveva le cose della pesca. Quando apriva le porte per pigliare la barchetta e il motore, uscivano le galline che cominciavano a correre da tutte le parti a cercare il cibo, e quello della palazzina F pareva che camminava uguale a proprio una gallina, coccolina avanti a testa bassa, micidiale uguale, precise. Scusa bello, ma che colore c'hai i baffi questi? Beh, i capelli sono neri e i baffi neri sono. Mi, non manca un pelo sulla guancia, e quello della palazzina F a 12 anni già la baffa nera teneva, Sali gradini, più ne sali più ti stanchi. Quando sali gli stessi gradini tu parti che sei già stanco. 5 piani ai palazzini in Italia, 100 gradini per arrivare sul terrazzo, il tetto del palazzo, c'è una vernice grigia spammata dappertutto, Tu devi salire sopra, che in modo che non vedi niente, non devi vedere né il pavimento né il muretto, che altrimenti ti spalma gli occhi di bianco e non ci vede più niente. La luce più forte di quella che puoi vedere nel cielo, allucinante proprio, Era il posto migliore. Sì, poteva salire qualcuno sul terrazzo di fianco, però è il posto migliore per fumare così alle 3 del pomeriggio. Ero diventato un mondezzaro da casa. Prendevo la busta della spazzatura e andavo a buttare, diceva, a casa. Però invece di scendere i gradini per andare a buttare la spazzatura, saliva 3 alla volta. Accorta, accorta, non fa rumore, che nell'ora della papagna, no? Ci stavo quello del terzo piano, un generale, lo chiamavamo tutti quanti noi, che un generale se sentiva poco di rumore usciva fuori, fuori sul pianerottolo e incominciava a luccare. Nell'ora della papagna avete fare silenzio, sono vaccina, avete capito? Accorta, non sbattere, questo era preciso, un generale, che se fa chiappo vaccino, se facete casino nell'ora in cui sto che duerme, capite sì o no? Questo era così preciso, pure quando camminava, no? C'aveva le scarpe, c'aveva il cuoio sotto le scarpe, no? E quando scendeva i gradini, tu potevi contare i passi in 4/4. Toc, toc, toc. Toc, toc, me, sta arrivo generale, toc, toc, toc, toc. Ci mettevamo in fila uno appresso all'altro e facevamo il saluto. Poi il generale passava e ci faceva il saluto pure lui. E poi Nunzio incominciava. Passa. Quello che ci guardava sempre un sacco di mazzate, ma noi scappavamo via veloce. Accorto, quello ci conosceva benissimo, si arrabbiava se facevamo un rumore. Arrivato sul tetto del palazzo, mi mettevo dietro la porta, no? Così se saliva qualcuno dietro la porta, potevo buttare a terra la sigaretta, riposto migliore per se fuma. Erano le 3 del pomeriggio. E la ciminiera, quella più alta, quella lunga, la più alta di tutti, a un certo punto incomincia a cacciare il fumo nero. Normalmente esce bianco, giallognolo, ma nero, è difficile. Mi avvicino al muretto per vedere meglio. E poi una nuvola nera, allucinante, nuffizza, mamma mia, c'è puzza, sin da qua, ma non si respira. Mi avvicino proprio al muretto per vedere che stava succedendo, al panico. Sento dietro di me la porta che si chiude. Se mio padre sono fottuto. Se mio padre sono fottuto, quello mi ammazza, mi uccide. Guarda, se mio padre sono fottuto, avevo buttato la sigaretta, ma puzzavo di fumo. Che se puzzavo di fumo, mio padre se ne accorgeva, ero morto, proprio cadavere proprio, proprio allucinante. Mi giro piano piano, che le gambe non si riuscivano a muovere, che c'avevo proprio la pisciarella che non si muoveva, che tutta la pipì addosso, mi stavo facendo, che se era mio padre ero morto, se era mio padre ero morto. Mi giro piano piano, piano piano, piano piano, piano, per vedere chi era. Mi giro piano piano, che non riuscivo proprio neanche a fare il romantico, a guardare la sciminiera. Mi giro piano piano, mi giro piano piano, mi giro piano piano, piano, piano. Quello della palazzina F. Quello da palazzina F si era messo dove mi ero messo io, si stava fumando una sigaretta, mannaggia a te, io t'accido, compà, io t'accido la prossima volta. M'hai fatto pigliare un infarto, compà, m'hai fatto pigliare un infarto, ste murevo. Dammi una sigaretta, me che l'ho buttata. Ehi, c'ha ragione Nunzio, La baffonita tina tu, I baffi proprio neri, neri, neri, neri, ma c'è schifo, la mustazza tina tu, mamma mia, sei proprio una mustazza tu. Non manco un pelo sulla guancia, quello della palazzina F per il Giro d'Italia, già i baffi neri, c'ha, ascolta. La prossima volta che entra qua, prima, tre tocchi alla porta. Caso non l'infarto, ma vieni ogni volta a me, capito? No, mannaggia te, mannaggia, sape quando sei brutto. Oh, ma non te li tagli sti baffi, fai proprio schifo, guarda, mamma, le mustazze proprio tieni tu. Oh, non manco un pelo sulla guancia, quello della palazzina F per il Giro d'Italia. C'hai i baffi neri a 12 anni. Che era nato un sabato pomeriggio, no? Come gli ospedali, le palazzine in Italia. Venivano i parenti a trovare gli altri parenti, no? Facevano le macchine e con loro venivano, con i grandi veniva anche lo ognuno come a noi, ragazzini, no? Per giocare a pallone, che stava lo spiazzo, il campetto. E si giocava a pallone. Era il sabato pomeriggio, il sabato in cui è nato il Giro d'Italia, stavano le meglio partite della settimana, perché si giocava, si facevano le sfide, no? Erano partite che tu giocavi fino a quando vedevi il pallone scomparire nel buio, fino ad allora giocavi. E chi faceva più gol vinceva. Il sabato pomeriggio in cui è nato il Giro d'Italia, la partita l'avevamo non vinta, peggio, proprio stravinta. Nunzio si era messo davanti alla porta avversaria dopo che avevamo fatto le squadre, no? Noi contro di loro. Si era piazzato davanti alla porta avversaria proprio, a voglia che quelli alluccavano. Fuori gioco, c'è fuori gioco, bello, c'è fuori gioco, con uno scaffo, mo, me, cioè, che posso avanti. Mi passi la palla, bello, panzi, passi la palla, che sto solo, ma passa sta palla, si sto solo, so, boom, me sbuna, mo, bello, abbiamo fatto gol. Bello, ma passa sta palla, ma passa sta palla, ma passa sta palla, boom. Me sbundavo micidiale 11-3 per noi, è finita la partita. Finalmente che la partita era finita, che il pallone non si vedeva più rotolare per terra, Nunzio incomincia a correre. Incomincia a correre, va verso la palazzina N, quella più vicina al campetto. Si avvicina al citofono. Beh, signor, signor, ma vinto 11-3, gol! La palazzina dopo, signor, signor, ma vinto 11-3, gol! Signor, signor, ma vinto tutto quanto, ma sbuna tutto quanto, ma si può troppo fa, si può troppo fa, tutto quanto, la palazzina N, Napoli, quella più vicina al campetto, fino ad arrivare a Alessandria, quella più vicina al mare, tutto quanto le palazzine, compresa quella F, Firenze, quella palazzina F, Firenze, ti dico la baffanina, non manca un pelo sulla guancia. E quella palazzina F, già baffinera a 12 anni, mustaz, ogni tanto se li taglia per farli infoltire, per farli infoltire. Se l'Italia per farli infoltire, per tornare un po' bambino ci mette un paio di mesi, si taglia i baffi e poi diventa un'altra volta un piccolo adolescente, perché Mustazzo c'è nato con i baffi, è nata Mustazzo. Musta, wizard da sedge, vedi che ti fa male, lasciami stare, sto contando, a quanto sei arrivato? Silenzio. Silenzio. Cielo rosso, una cappa rossa. La vedi? Cielo rosso, unica nuvola rossa. Nuvole bianche? No. Unica nuvola rossa. Cielo azzurro? No. Nubi. Nubi. Colore? Scuro. Pioggia? No. Colore? Scuro. Pioggia? Puzza. Domenica? Ho camminato per un giorno intero, sempre sulla testa, oh, non scappa, non insegue. Domenica? Aspetto. Una nuvola nera? Un po' di pioggia d'acqua. Nelle palazzine d'Italia, da un lato ci sta il Mar Piccolo, dall'altro ci stanno le ciminiere, in mezzo ci sta il campetto. Nei giorni di festa Nunzio è prima a scendere a asciugare pallone, perché nei giorni di festa Nunzio va a pescare col nonno, perché il nonno di Nunzio ogni giorno andava a pescare, pure i giorni di festa non ce la faceva a stare nelle palazzine in Italia. Era il primo novembre, faceva caldo forte, assai, al sole sembrava di stare ancora a settembre, a maniche corte dovevi stare. Ero sceso sotto casa e Nunzio stava in mezzo al campetto, in fondo, col nonno. Avino, bello! Mega, andiamo a pescare! Mi avvicino al nonno di Nunzio, che c'aveva la rete sulle gambe. Sì, ma è stato a pescare tu? No. Piglia la nafta. Qual è? Atanacarosse. Se no vai e non ci torna, arriva. Piglia la nafta e mette sulla barca. In silenzio prendo la tanica rossa e la metto sulla barchetta. Mustaz, pure quello della palazzina F sta venendo sul porticciolo. Me nonno, mone putimace, batti da rezza sulla barca. Mustaz arriva, prende la rete dalle gambe del nonno e sale sulla barchetta. Poi si siede accanto al nonno sulla barca. Le palazzine si allontanavano, man mano che vedevo le palazzine allontanarsi, dietro spuntavano le ciminiere. Man mano che il motore spingeva indietro l'acqua, le ciminiere diventavano sempre più grandi. Vedevo la mia stanza di casa scomparire e diventare piccola, piccola, piccola, piccola. In mare c'è un'aria fresca, bella, leggera, che ti entra nei narici. Mustaz, che stava a fianco al nonno, lo aiutava a buttare la rete e diceva: pigliarez, nonno, e buttarez, pigliarez, nonno, e buttarez, pigliarez, nonno, e buttarez. Da stascit stue, diceva Nunzio un poco gelosa, pigliarez, nonno, e buttarez, pigliarez, nonno, e buttarez. Da stascit creti, pigliarez, nonno, e buttarez, pigliarez, nonno, e buttarez. Da stascit no! Ehi, stascit tu, il nonno di Nunzio annunzio. Basta qua, non avete da parlare proprio. Silenzio, vedi qua, lo vedi qua, qua non ci sta una nuvola, non ci sta. Lo vedi dove sta la cappa, lo vedi dove sta la cappa. Qua non ci sta manco una nuvola. Che parlata fa? Non sprecata fiata. È respirata. Nunzio e Mustaz non ci parlavano a più, zitta zitta tutta quanta. Le palazzine si allontanavano, man mano che il motore spingeva indietro l'acqua, le palazzine diventavano sempre più piccole. Vedevo la stanza mia ormai lontana, lontana, lontana, dietro le ciminiere che cacciavano un sacco di fumo. La ciminiera, quella più alta. A un certo punto, sembrava che c'aveva l'ovatta sopra. Man mano che il motore spingeva indietro l'acqua, l'ovatta cresceva e cresceva. Nunzio. Oh. Vedi da dove nascono le nuvole? Mato, bellissimo, è da lì che escono le nuvole. Musta, vedi da dove escono le nuvole? Mato, bellissimo, è da lì, micidiale, capita dove escono le nuvole? Mato, veramente, ma capita dove escono le nuvole? Oh, veramente, micidiale, micidiale, proprio, trovo veramente bello. Signor, guardate dove escono le nuvole, oh, signor, bellissimo, veramente, no, è stata fascetta, mannaggia la miseria, è stata fascetta, calluccata fa. Ma che nuvole e nuvole? Statevi zitti e respirate qui. In silenzio, però. Aspettavamo che la nuvola cresceva e man mano che il motore spingeva dietro l'acqua, la nuvola cresceva, cresceva, cresceva e saliva verso la cappa e poi scompariva nella cappa. Stata vascetta e respirata. Accendi una volta e spegni. Accendi due volte e spegni, accendi tre volte e spegni, era il segnale. L'ora non era precisa, non poteva esserlo, perché bisognava aspettare che la busta della spazzatura fosse pronta per essere buttata. 12 palazzine uguali ai palazzini d'Italia, da un lato ci sta il Mar Piccolo, dall'altro stanno le ciminiere, vicino alle ciminiere ci stanno i cipressi, vicino ai cipressi ci sta un muro, The Little Cedar, si pensava, fino a sabato del 9 novembre. Il sabato, no, era il giorno dei partitoni, la meglio partita della settimana che si giocava fino a quando il pallone non vedevi scomparire nel buio. La partita era finita, non mi ricordo a quante, però era quasi buio. Nunzio prende il pallone e tira una sbornata verso il cielo e il pallone va a finire oltre i cipressi, dall'altra parte del muro. Dall'altra parte non c'era mancano guardiana, capito, a fare le guardie o cimitina, proprio per niente. Tutto sporco, a terra, tutto zozzo, le fioriere vuote, dappertutto, i marmi a terra, tutto sporco, i muri delle cappelle, no? Tutto sporco era. Mustaz passava le mani sulle fotografie attaccate ai marmi e poi se le guardava. Nunzio, col pallone, che l'aveva trovato, tirava i calci contro il muro di una cappella. A ogni calcio si alzava una nuvola di polvere rossa. La polvere rossa era dappertutto. Sui marmi, a terra, i cipressi da questo lato erano già rossi. Uno accanto all'altro, col pallone, tiravamo i calci contro il muro. Un calcio e si alza una nuvola di polvere rossa. E il muro sembra tornare leggermente più bianco. Un calcio e si alza una nuvola di polvere rossa e il muro torna effettivamente un poco più bianco. Una sbonnata, cade tutto quanto all'intonaco. E il pallone si ferma sotto al muro. Ognuno le fantasma stanno qua, sta a dire? La fantasma stanno qua, mo c'è maniera tutta quanti. Me lo fa credere così, come perché paura. No, la fantasma stanno qua, ma perché non sacra paura, la fantasma. No, per piacere, farà così, mi prendo paura. Mo la fantasma c'è maniera tutta quanta. Ma ci dobbiamo far perdonare, ci dobbiamo far perdonare. Come facciamo a farci perdonare? Accendi una volta e spegni. Accendi due volte e spegni. Accendi tre volte e spegni. Era il segnale. L'ora non era precisa, non poteva esserlo. Perché bisognava aspettare che la busta della spazzatura fosse pronta per essere buttata. Ci eravamo dati appuntamento sul terrazzo, il tetto del palazzo. Nei palazzini in Italia c'è il tramonto, 365 giorni all'anno, tutte le notti dura, pure mo se c'è da vedere stasera, ci sta il tramonto, il cielo rosso, così verso le 8 di sera tu ti puoi guardare in faccia uno con l'altro, anche se è buio pesto. È un posto molto romantico, le palazzi in Italia. Così sul terrazzo noi ci vedevamo in faccia facilmente. Accendi una volta il segnale, accendi due volte la risposta, accendi tre volte l'altra risposta. Facciamo un freddo cane, e non si incomincia a dire: beh, guagnù, muovimo già qua che sono ghiacciamo proprio, E Mustazzi inizia: scusate, sì, scusate la bere, volevamo solo i granelli. Sì, i granelli volevamo, scusate, sì, proprio i granelli volevamo, scusate. Scusate. Mia madre è un'abile elencatrice dei malanni altrui. Casalinga di professione, aspira a polvere per necessità. La mattina alle 7 a casa mia ci sta l'appello per la polvere rossa. La polvere rossa risponde, zac, ne sa che te aspira a polvere, perché mia madre la polvere rossa non già supporta proprio, non la può manco vedere proprio, Mia madre passa ad aspira a polvere tre volte al giorno, la mattina, prima la colazione, allora da pranzo e la sera. Allora di pranzo incomincia a fare l'elenco dei malanni. I malanni sono sempre gli stessi, quello che cagnano a volte sono le persone. E mentre passa la spina povera incomincia a dire: ho visto quello da palazzina accanto, ma come sta tirata in viso. Steppeghi pure a ieda, steppeghi pure a ieda, manna che la maser, steppeghi pure a ieda, manna che l'ho detto a tuo padre, l'ho detto a tuo padre. Io me ne voglio andare da qua, me ne voglio andare. La sera che tornava a Tanama, la fatica, no? Mentre si cenava, mia madre si alzava, passava a aspirare a polvere e cominciava mia madre, no? Me ne voglio andare da qua, me ne voglio andare. E mio padre diceva: bella, trovate una fatica, teniamo più soldi e andiamo da qua. Mia madre spegneva l'aspirare a polvere, lo guardava intensamente. E poi chi la pulisce sta a casa? Finiva così. Cioè, per mia madre non poteva essere che quello che saliva nella scala domodossola per caso rientrava a casa perché stava stanco. No, non ci poteva essere, no? Non c'aveva voglia di camminare, no? Stava proprio scazzato, no? Non poteva essere. Dopo un po' sentivi: dov'è che è sciuto qui da? Dov'è che è sciuto? Dov'è che è sciuto? A Roma è andata, ma che Roma è Roma è Roma, fidati di me, quello è andato a San Giovanni Rotondo. Che essendo San Giovanni Rotondo, già a benedizione stiamo. No, tu, allora io sono frato cazzino, no? E hanno saputo di un posto, no? Che sta senza nome Garda, dove ti curano proprio bene, sono dice, sì, vabbè, compa, fammela c'è proprio in Svizzera, a Zurigo, e abbiamo finito tutto così. E vabbè, su sti fatti non si scherza, però, Comunque, dopo un po' di tempo, quello della palazzina scompariva, e dopo un altro po' scompariva tutta la famiglia, un po' come la polvere rossa, solo che la polvere rossa nella aspirapolvere di mia madre scompariva, ma poi dopo un po' tornava. Nei palazzini d'Italia, da un lato ci sta il Mar Piccolo, dall'altro ci stanno le ciminiere. Vicino alle ciminiere ci stanno i cipressi, che quando le punte dei cipressi incominciano a ballare, quando cominciano a ballare le punte dei cipressi, tu puoi decidere che fare con la polvere rossa. All'inizio, quando le case sono state consegnate, non c'era ancora la corrente, però in casa, di giorno, con la finestra aperta, la serranda alzata, ci stavi, avevi la luce. Poi la luce è arrivata, ma le serrande si sono abbassate e le finestre chiuse, perché bastava un po' di vento che cominciava a muovere le punte dei cipressi che cominciavano a ballare, e tu con la polvere rossa potevi decidere che fare, se tenerla nel piatto in cui stavi mangiando, oppure a terra, oppure tenerla nei cassetti da biancheria, o te la portavi proprio nel cuscino a dormire. Se l'ha capito presto. E dall'altra parte del muro noi l'avevamo scoperto, modestamente, i primi forse siamo stati noi, quel sabato pomeriggio. Dall'altra parte del muro la polvere rossa stava dappertutto, sui marmi, a terra. E insomma, se è vero che il mare si mangia la sabbia, la polvere rossa si sarebbe mangiata la palazzina, a tutti quanti noi, e poi a tornare al mare. Nunzio stava in mezzo al campetto, col nonno, che prendeva una gallina, la passava al nonno e il nonno la metteva in macchina. Prendeva una gallina, la passava al nonno e il nonno la metteva in macchina. Scusa, bello, ma che stai facendo? Ehi, ne siamo panza. E dov'è che ve ne andate? Ci andiamo in un'altra casa, che mamma mia, stessa paccia proprio, mia madre, proprio fuori di capo sta andando, meglio che ce ne andiamo. E dov'è che ve ne andate? Non lo so, dall'altra parte. Ah. La vuoi una gallina? Pigliati una gallina che ti fa un brutto che è la fine del mondo. No, non la voglio la gallina, Nunzio. E perché la gallina che ti fa un brutto che è la fine del mondo? Non la voglio la gallina, Nunzio. No. Questo la gallina non la vuole. Prenditi questa però. All'inizio, quando le case sono state consegnate, non c'era ancora corrente. A buio arrivavi davanti a un portone, a una porta, e infilavi la chiave nella porta tua. Nunzio mi infila in tasca la chiave di casa sua. A te può servire. Sale in macchina con le galline e col nonno e va via. Carbone bella. Un carbonara passava che tirava il carretto col carbone, la schiena curva, e si raddrizzava soltanto per gridare carbone bella. D'estate nei palazzi in Italia si mangiava sotto casa, nell'acqua, sedie, tavolini, ombrelloni, nell'acqua. Un carbonara passava, carbone. Lo sentivi arrivare da lontano dalla voce che sembrava un eco come il vento. Carbone. Tu andavi a prendere il carbone e lo buttavi sotto la griglia, poi mangiavi e con calma lo andavi a pagare, perché il carbonaro stava sempre sotto le palazzi in Italia. Carbone. Sembrava come una nuvola quando è sereno. La guardi e sta ferma. Poi ti giri, la riguardi e la nuvola si è spostata, come un ricordo che una volta ti sembra vicino e un altro si perde nella corrente. carbona, carbona bella. Nei palazzi in Italia ci sta poca luce. È estate, inverno, non ci sta differenza. Sempre con la luce accesa devi stare. Mamma ha cambiato aspirapolvere, modello più silenzioso, eh. Però la mattina alle 7 passa l'aspirapolvere, la passa all'ora di pranzo, la passa la sera, tutti i giorni dell'anno, perché a casa mia la polvere rossa non conosce stop. Né a Natale, né a Pasqua, né a Ferragosto, così mia madre deve passare la polvere rossa tutti i giorni, 3 volte al giorno. All'ora di pranzo comincio a fare l'elenco dei malanni. I malanni sono sempre gli stessi. Quelle che cambiano a volte sono le persone. La signora Pian, poverina, sta male. E che c'ha? C'è una brutta malattia. E che c'ha? Non respira bene. Beh, non lo mangi il brodo? Ma che ci ha messo il formaggio nel brodo? È normale che ci ho messo il formaggio. Ma lo sai che a me non mi piace il formaggio nel brodo? Ehi, bello, mangia e stai scitto. Accendi una volta, accendi una volta, accendi una volta. Sul terrazzo ci salivo così ogni tanto, che da solo era scocciante andare a fumare sigarette. Nunzio era il quarto inverno che non ci stava più. Con Mustazzo ci incontravamo ogni tanto sotto casa, sotto a porticato. Come stai, compa? Tutto a posto. E tu? Tutto a posto. Chi andava alla ragioneria e lui all'ITIS, ci incontravamo poco. Poi con la madre che aveva i problemi, non ci vedevamo mai. Era febbraio, me lo ricordo bene, faceva freddo proprio assai, che freddo, ti pareva una mannaia in faccia che ti scannava proprio, faceva proprio freddo assai. La cappa sopra le ciminiere sembrava una fetta di melone rosso, melon, susa la cappa, ma guarda quando era bello, proprio bello preciso e tagliato, proprio una bella fetta di melone rosso. Il freddo sembrava una mannaia. Nunzio però, prima di andare via, mi ha lasciato la chiave di casa sua. La palazzina a Genova, quella dove abitava Nunzio, era tutta buia, perché non ci stava più nessuno dentro, no? La pallina è cieca, la lampadina, chi la doveva cambiare? Casa di Nunzio era al primo piano, la porta a sinistra, una chiave, una... Madonna mia, ehi! Mi hai fatto pigliare un colpo, mannaggia miseria, ma potevi dire che venivi pure tu qua, mannaggia miseria, la seconda volta, compà, la seconda volta, fammi pigliare un goccio d'acqua, c'è un goccio d'acqua. Stai morendo proprio, mannaggia miseria, mi hai fatto pigliare. Mustazzo non stava alla finestra, anche lui a casa di Nunzio e guardava fuori, mannaggia miseria, compà, altri 10 anni di vita, tu lo fai apposta secondo me, non mi vuoi bene tu, mannaggia miseria. Una scena romantica però, bellissima. Mustazzo, dopo che me l'ha passata la paura, stava proprio vicino alla finestra, il tramonto che ce n'è nelle palazzine in Italia, il tramonto, il cielo rosso che ci sta 365 giorni all'anno, se tu vieni adesso a Taranto lo puoi pure anche vedere stasera. Mustazza va là, affacciati. La vedi questa finestra? È che non la vedo, Mustazza. L'ho pulita ieri, polvere rossa, grossa, come granelli. Mustazza, la sta... Alzati dalla sedia, me. Vedi che ti fa male. Lasciami stare, sto contando. A quanto sei arrivato? Silenzio. Silenzio. Cielo rosso, una cappa rossa, la vedi? Cielo rosso, unica nuvola rossa. Nuvole bianche? No. Unica nuvola rossa. C'è l'azzurro? No. Nubi? Colore? Scuro. Pioggia? Puzza. Ho camminato per un giorno intero, sempre sulla testa. Non scappa, non insegue. Domenica? Aspetto. Una nuvola nera. Un po' di pioggia d'acqua. Tu l'hai più vista, Annunzio, eh? No, Musta, non è che ho visto. Qua manco il sabato e la domenica ci viene per nessuno. Lo so, lo vedo pure sto fa. Tu ci torneresti qua? Che ne so, Mustazzo. Uno per sapere se vuole tornare deve prima andare via, no? Già. Lo sai che basta un nome, un cognome e una firma e smetti di guardare? No, che stai dicendo, Mustazzo? Non ti capisco. Un nome, un cognome e una firma e smetti di guardare. No, non ti capisco, Mustazzo. E mano c'ha dei fogli, dei modelli, dei moduli, dei prestampati. Che tra le sue mani sembrano frusciate come carta moneta. E Mustazzo corre. Mette una firma sotto le possibilità. Ma mamma teneva ragione, eh? Allora di pranzo faceva l'elenco dei malanni, quelli che cambiano a volte, sono cristiani. I malanni, sempre gli stessi. E la signora Pian, con tutto l'ossigeno, non ce la fa più a respirare. La prima volta che Mustazzo è venuto a casa mia è venuto alle 8 di sera. E mi ha chiesto se andavo a casa sua. La palazzina F. 4 gradini porta sulla destra l'appartamento della signora Pian. La signora stava nel letto che sembrava che stava dormendo, Sudava assai proprio. Come se c'aveva la febbre altissima proprio, micidiale. Allucinata. Ogni respiro si gonfiava tutto, faceva impressione. Mustazzo si siede accanto a lei. Spruzza l'acqua. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. L'acqua vaporizzata scende lentamente e la signora Pian sembra rallentare l'affanno. Poi Mustazzo si alza, letto, finestra, finestra, letto. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. L'acqua vaporizzata scende lentamente. Poi letto, finestra, finestra, letto. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. E Mustazzo sembra una locomotiva, sullo stesso frammento di binario. Letto, finestra, finestra, letto. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. Letto, finestra, finestra, letto. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. 3 volte sulla testa, 3 volte sulle braccia, 3 volte sulla testa. Poi, come una rosa che passa il suo tempo, come rosa van via. Mamma, ma le mattonelle bianche le ha volute pure in cucina, no? Tu in bagno puoi decidere. Tu puoi decidere se usare lo specchio, il muro oppure a terra. Le mattonelle bianche dappertutto stanno in casa, I mobili della cucina bianchi sono. L'ho detto a tuo padre, a casa di tua madre ci andiamo, ma io le mattonelle bianche le voglio, che voglio vedere la casa pulita. E mio padre, che gli ho dato il prepensionamento all'Ilva, di sentire mia madre che alluccava ancora per i soliti problemi, non c'aveva più bocchi. E mia madre sorrideva da quando l'avevamo più dovuto lei pulire sempre, la mattina e la sera. Sorrideva da quando avevamo cambiato casa e stava appoggiata alla cucina. Una cosa per te, una cosa per me. Sì, ma ha lasciati il figlio della signora Pian, buon'anima. Però una me la devi ridare subito. Allora sono 2 le cose. Me non fa uscire, prometti. Prometto. E mia madre mi passa una busta con dentro una lettera ed un sacchettino. La lettera. A causa delle gravi condizioni di sua madre, la signora Pian, il nostro sostegno si manifesta nel proporle l'inserimento nell'organico del centro siderurgico Italsider, qualifica di metalmeccanico, livello contributivo. Mia madre prende la lettera e la strappa dalle mani. E Mustazzo corre. Sfoglia modelli, moduli prestampati e mette la firma sotto le possibilità. Poi esce per strada e vede come se fosse la prima volta i negozi, gli oggetti, i vestiti, gli orologi. Comincia a pensare che qualcosa se la può comprare anche lui, no, Mustaz? E Mustaz corre e pensa, Mustaz, che magari facendo i doppi turni, magari trovando anche un lavoro fuori, sabato e domenica, magari potrà arrivare il giorno in cui Mustaz una casa fuori dalle palazzine d'Italia se la potrà comprare anche lui. E Mustaz corre. Nel sacchettino ci sono granelli di sabbia e dentro un bigliettino. Contane uno alla volta, che quando è finito poi ci vediamo. Nelle palazzine d'Italia ci sta poca luce, è un rione, è il rione Italia. Sono delle palazzine tutte uguali tra loro, non è che si somigliano, sono uguali, identiche, precise e precise una all'altra. Stesso portone, stessa fioriera, stesso ficus, stesso colore sulle pareti dell'ingresso, stesso numero di gradini, stessa disposizione. E non è facile per niente, non è facile per niente tornare a casa.